Focus Economia. Le 17:07 minuti, 43 secondi, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. È una giornata naturalmente caratterizzata dalle vicende irlandesi, ne parleremo nella seconda parte del programma, dopo le 18. Nel frattempo vi diciamo che dopo un'apertura positiva da parte delle piazze finanziarie, proprio per l'ok sostanziale arrivato tanto dall'Irlanda che doveva richiedere gli aiuti, quanto dal Fondo Monetario e dall'Europa, e non solo, anche da parte di paesi fuori dall'euro come per esempio l'Inghilterra, adesso le borse hanno virato al ribasso. E perché? Perché in Irlanda sta arrivando una sorta di instabilità politica. Poco fa i Verdi hanno dichiarato di voler uscire dal governo, di non volerlo sostenere più, e sono determinanti per la coalizione di governo irlandese, vorrebbero il voto addirittura a gennaio. Dunque, per darvi un'idea, in questo momento Milano perde il 2,27%, a dire la verità la peggiore d'Europa, pesa anche lo stacco di qualche cedola, ne parleremo più avanti nei mercati. Il FTSE share cede 2 punti percentuali, male fa il resto d'Europa, Parigi giù dell'1,04%, Londra dello 0,84% e Francoforte dello 0,43%, negativa anche New York, giù dello 0,79%, mentre l'euro quota 1,36,04% contro dollaro. E poi ci sono alcuni singoli casi, ne parleremo più avanti. Parleremo di questo, parleremo di banche, perché abbiamo realizzato un'intervista con il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Musser. Abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti di stretta attualità, a partire dalla nuova ipotesi di moratoria sui debiti delle PMI, che poi moratoria non è, si tratterà di uno strumento nuovo, perché la moratoria non si può più fare, e anche del rinnovato clima di fiducia con le imprese. Questi i temi al centro di questa giornata. Iniziamo come sempre con le notizie in breve di oggi. Sempre il 349-238-6666 per i vostri sms. Iniziamo dal petrolio, che ha aperto in lieve calo a New York, ma lievissimo veramente, di un centesimo, ad $81,97 al barile. Tra i casi di borsa di oggi c'è sicuramente Prysmian, in questo momento è la peggiore del listino, cioè del 5,06%, perché la ex Pirelli Cavi ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Draka, che è un'azienda olandese attiva nello stesso settore. Il prezzo è di 17,2 euro per azione, ma già si sta scatenando una battaglia, perché il gruppo cinese Tianjin Jinmao ha messo sul piatto 20,50 euro per azione. Insomma, un rialzo, un rilancio di 3,30 euro. Anche se al momento le notizie che arrivano da Draka, appunto, sono che insomma l'OPA lanciata, che in realtà è un'OPA, su un'offerta pubblica di acquisto e scambio, perché c'è anche una parte in azioni. L'offerta lanciata da Prysmian è un'offerta non ostile, quindi per il momento gli azionisti di riferimento restano orientati su Prysmian. Naturalmente poi il CDA di Draka vedrà e deciderà, ne parleremo più approfonditamente nei mercati. Sul fronte invece dei mercati del debito pubblico c'è stato oggi un netto recupero dei titoli di Stato irlandesi, appunto in vista dei dettagli del pacchetto di aiuti. Il rendimento dei bond decennali è calato al 7,67%, con il restringimento dello spread, ossia il differenziale di rendimento rispetto al bund tedesco, a 496 punti dopo aver toccato il record di 652 punti. Si allenta anche la tensione sui titoli portoghesi e spagnoli, però sull'Irlanda c'è Moody's che dice possibile un forte taglio del rating, molto probabile, lasciando però il rating del paese ancora nella categoria di investment grade. Dall'altra parte un segnale invece che va nella direzione opposta, perché torna a salire il rischio debito dei paesi cosiddetti periferici di Eurozona. I credit default swaps, questa sorta di assicurazioni contro il rischio di default sui titoli sovrani, sono schizzati di 36 punti base a 1.004 punti per quanto riguarda la Grecia, e quelli sull'Irlanda sono a quota 508 punti. Ed è in rialzo anche il rendimento dei titoli di Stato della Grecia, con lo spread che risale a quota 900 punti. Il rendimento dei bond a 10 anni è salito a 11,79%. Tra l'altro una notizia curiosa dalla Spagna: mentre dal Portogallo le autorità dicono non abbiamo bisogno di aiuto, si apprende che il comune di Madrid invece in Spagna ha accumulato oltre 7,1 miliardi di euro di debiti e non riesce a far fronte ai pagamenti dei fornitori di servizi, che minacciano ora di sospendere la raccolta dell'immondizia nel 2011. Siamo ai dati diffusi oggi dall'OCSE: ha frenato il PIL nel terzo trimestre ad un più 0,6%, per quanto riguarda l'Italia siamo ad un più 0,2%. E sempre in tema d'Italia ci sono segnali di ripresa per l'industria metalmeccanica. La produzione del terzo trimestre 2010, rileva Federmeccanica nella sua indagine congiunturale, è aumentata del 3,1% rispetto al trimestre precedente, del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2009. Più avanti sentiremo un'intervista su questo. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dice: chi ha la possibilità, la capacità, è giusto che parta prima nell'applicazione del federalismo, facendo riferimento specificatamente alla Lombardia. Dunque, sentiamo Emma Marcegaglia al microfono di Loredana Marchesi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Io penso che insomma in un paese così diverso come abbiamo noi, con regioni che sono tra le prime in Europa per sviluppo e regioni che sono tra le ultime in termini di sviluppo, io credo che sia importante che chi è pronto possa partire in anticipo rispetto magari a chi non è pronto. Questa regione è certamente pronta, tutti i dati lo dicono, e quindi io penso che qua servono delle risposte che imprenditori e cittadini aspettano velocemente. 2013 potrebbe essere tardi? Insomma, io mi auguro e spero che si possa magari, chi è pronto possa magari anche partire prima. A chi ci chiede di Finmeccanica, in questo momento c'è del 4,81%, ne parleremo più avanti nei mercati. Ricordiamo tra l'altro che da oggi, visto che abbiamo parlato di Confindustria e avete sentito nel GR che stiamo ancora parlando di situazioni di maltempo e di alluvioni, si estende l'iniziativa di Confindustria per le imprese di territori colpiti dalle recenti alluvioni. Perché? Perché prima c'era un conto corrente dedicato solamente al Veneto, poi con l'accordo della Confindustria Veneta si è deciso di estendere la sottoscrizione anche a Calabria e Campania, altri territori fortemente compromessi dalle recenti alluvioni. Si legge nel comunicato: rappresentano per Confindustria priorità di intervento insieme al Veneto a livello di rappresentanza politica, ma soprattutto di concreta solidarietà, e quindi riparte la sottoscrizione. Tutti i dettagli li trovate sul sito di Confindustria, ma anche sul nostro sito, sul sito di Radio 24. Le difficoltà per il credito delle imprese. ABI e Confindustria hanno aperto un tavolo per trovare in tempi stretti strumenti alternativi e selettivi alla moratoria che scadrà il prossimo 31 gennaio e che non sarà più rinnovabile per espresso ordine della Banca d'Italia, che dice altrimenti questi crediti le banche li dovranno iscrivere a sofferenze, creando problemi per i bilanci. Quindi non più tecnicamente ripetibile. Si sta pensando a qualcos'altro. Abbiamo intervistato il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del seminario tecnico dell'ABI a Gubbio. Sentiamolo. Stiamo lavorando a un tavolo con ABI per cercare una way out, consapevoli che, come ha già chiarito Banca d'Italia, la moratoria non è prorogabile. Tra l'altro ricordo che è stata già prorogata da giugno a dicembre, quindi scadrà questo dicembre, e vedremo un attimo insieme quali sono le possibilità di costruire un meccanismo sicuramente più selettivo che possa riguardare l'allungamento di rate o il passaggio da breve a lungo per talune aziende. Tra questo state pensando ad un ragionamento per tutelare le imprese dal rischio tassi? Questa è un'altra dimensione della questione, che non è di imprese marginali ma di imprese che in questo momento stanno facendo ricorso alla leva debito in quanto forti e con tassi di interesse bassi. Costruire un percorso che possa blindare i tassi di interesse sul fisso per i prossimi anni e quindi difendersi da eventuali aumenti con strumenti semplici e condivisi con ABI è un elemento di forza e che poi rientrerà nelle scelte delle singole imprese. Ed è proprio da qua che ripartiamo, dal seminario dell'ABI che è avvenuto a Gubbio, dal quale uno dei dati che è emerso è che è ritornata positiva la dinamica dei finanziamenti alle imprese in Italia, con un trend migliore secondo l'ABI della media europea, un incremento tendenziale dello 0,3%. Dopo aver toccato il punto di minimo di meno 3,1 a fine 2009. Su questo, sui rapporti con le imprese, anzi a partire dai rapporti con le imprese, lo ricorderete, insomma, solo un paio di anni fa erano molto tesi tra il sistema bancario e le imprese. Abbiamo fatto il punto proprio con il presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari, parlando appunto della situazione delle banche, di Basilea 3, della crisi irlandese e appunto anche il rapporto con le aziende. Sentiamo l'intervista. Credo che la svolta sia stato avviso comune, quindi il grande merito dell'avvocato Faissola, che mi ha preceduto alla presidenza dell'ABI, e da lì abbiamo cominciato a ragionare insieme di come le questioni che ci dividevano non erano poi in fondo questioni che dipendevano esclusivamente o in gran parte dalla volontà reciproca. C'era un tema di regole, c'era il fatto che non avevamo metabolizzato cosa significava fino in fondo cosa significava Basilea 2, e da lì l'impegno comune per comprendere meglio e per cercare di intervenire su Basilea 3. Cioè, c'è un clima in cui fra imprese e imprese bancarie abbiamo compreso che, pur nella dialettica comunque tra cliente e banca, ma come c'è la dialettica comune fra impresa fornitrice e cliente che acquista il prodotto, c'è uno spazio enorme comune per fare delle cose nell'interesse non solo di una parte ma reciproco. Sembra quasi, anche a vedere il tavolo che è stato costituito su iniziativa di Marcegaglia e che tra l'altro si svolge da voi, che stiate svolgendo anche con i sindacati una sorta di ruolo di supplenza rispetto ad una concertazione che dal livello governativo è un pochino venuta a mancare. Ma non lo so, come dice la presidentessa Marcegaglia, quel tavolo non è un tavolo politico e non è un tavolo contro la politica. Io credo che dovremmo abituarci, dentro una fase economica totalmente nuova, ad utilizzare anche dal punto di vista del linguaggio schemi e significati totalmente diversi. Quello è uno sforzo che il presidente Napolitano, peraltro che ringrazio, ha premiato con la sua osservazione durante la giornata di consegna dei diplomi ai Cavalieri del Lavoro. È uno sforzo che le parti sociali fanno per metterlo a disposizione del Paese. Io credo che ogni qualvolta qualcuno fa uno sforzo nel senso dell'interesse generale, dobbiamo coglierlo come un fatto positivo, non come un fatto sostitutivo o qualcuno si arroga il compito di qualcun altro. È uno sforzo e un contributo. Poi alla politica ovviamente il compito di recepirlo se lo vorrà, di sublimarlo, di tradurlo in norme, in regole, di modificarlo e di migliorarlo, ma dobbiamo cercare di essere proattivi per un verso e nello stesso tempo in grado di recepire quanto più è possibile quello che di buono viene dalle parti sociali. Restando sui temi generali, poi veniamo un attimo a quelli più strettamente bancari. Lei ha rilanciato con una certa energia il tema del salario di produttività. È chiaro che noi dobbiamo trovare un meccanismo che ci consenta di determinare una maggiore crescita di ricchezza. Questo meccanismo non può essere solo quantitativo, cioè il salario di produttività è un aspetto determinante. Poi c'è un tema di convinzione generale, di progetto comune, di afflato che va al di là della convenienza economica, di essere coinvolti in un progetto per il paese. E maggiore ricchezza significa maggiore equità sociale, maggiore mobilità sociale, maggiore domanda interna. È questo che noi dobbiamo in qualche modo recuperare, anche perché la fase economica nuova ce lo impone, ce lo chiede. Il debito pubblico come compensatore delle contraddizioni non esiste più. Abbiamo visto che si muore di eccessivo debito privato, si muore di eccessivo debito pubblico. Il tema del salario di produttività, avete intenzione di portarlo anche solo come spunto di riflessione ad un tavolo, al tavolo per il rinnovo del contratto ai bancari che già si preannuncia, diciamo, un pochino complicato, soprattutto sul fronte del fondo esuberi? Ma sicuramente saremmo coerenti rispetto a questo, ma noi speriamo in primo luogo di chiudere in tempi ragionevoli il tavolo sulla produttività, il subtavolo della produttività, parte del tavolo più generale promosso dalla dottoressa Marcegaglia, dalla presidente Marcegaglia. Quello sarà uno stimolo, se arriviamo a una conclusione comune, utile per tutti i rinnovi dei contratti e quindi anche per il rinnovo dei contratti dei bancari. Rimanendo in parte in tema, ma venendo a temi più bancari, questo migliorato rapporto con le imprese si testimonia anche con un segnale positivo che ci avete fornito in questi giorni, questa morbida per il momento crescita del credito. Sì, crescita del credito è connaturata all'andamento del ciclo economico. Noi abbiamo sempre detto che non c'era mai stata una stretta creditizia e oggi i dati lo confermano in maniera assolutamente evidente. Siamo in una fase di tassi bassi, quindi con la possibilità per le imprese che vogliono fare investimenti di prendere soldi a medio lungo termine a tassi oggettivamente molto convenienti. Da qui l'idea di Boccia di giusta, dire cerchiamo di ragionare su come questi tassi li rendiamo in qualche modo compatibili anche nell'ipotesi in cui, che in parte ci auguriamo, l'economia riprenda e quindi i tassi riprendano ad andare avanti. E su questo io credo che dobbiamo dare la nostra disponibilità per prodotti lineari, non speculativi, che chiaramente non possono probabilmente congelare i tassi ad oggi, ma possono individuare un cap e su quel cap chiedere ovviamente uno sforzo all'imprenditore che si copre, ma nello stesso tempo dargli la sicurezza che oltre un certo limite lui non verrà mai a pagare. Questo anche per superare la moratoria che andrà in scadenza il 31 di gennaio? Sì, questo anche per superare la moratoria, poi superare la moratoria probabilmente meriterà anche qualche altro strumento, considerando sempre che un pezzo di moratoria è scaduto e grandi problemi non ce ne sono stati, anche Boccia ci ha detto che non ha riscontrato significative questioni. È evidente che questa crisi lascerà qualcuno sul campo, questo l'ha detto anche il presidente Boccia, e questo dispiace ma è inevitabile. Noi dobbiamo stare attenti ad aiutare tutti quelli che hanno le condizioni per farcela, cioè anche in questo caso premiare il merito significa salvaguardare il tessuto imprenditoriale ma nello stesso tempo non consentire a chi purtroppo questo merito non ce l'ha di inflazionare il mercato sui prezzi, sulle condizioni di vita dei lavoratori e quindi a fare un danno ai soggetti virtuosi. Verrei adesso a qualche tema più strettamente bancario, a partire da quello dell'imposizione fiscale. Avete segnalato un problema per il quale lei dice noi di fatto stiamo finanziando lo Stato a tasso zero. Ci può spiegare meglio in cosa consiste questo problema e in cosa si differenziano le banche rispetto alle altre imprese? Perché anche le altre imprese, come dire, hanno problemi di questo tipo, cioè il pagamento di tasse, nonostante i passivi, soprattutto per l'IRAP, è un problema possente. Ma per noi noi abbiamo un problema generale, noi paghiamo in media una quindicina di punti in più di tasse rispetto ai nostri concorrenti europei. E questo è un tema di competitività importante per le nostre imprese bancarie. Abbiamo detto con chiarezza quest'anno, perché poi bisogna essere coerenti, che a fronte della situazione del debito pubblico noi non chiedevamo una riduzione di tasse, anche se ne avevamo tutto il diritto, perché se poi tu dici che cambiata la fase, che di debito si muore, non puoi essere il primo a chiedere di aumentare il debito, perché insomma non sta nelle cose. La questione delle imposte differite è una questione tipica italiana che non ha eguali e si basa su un meccanismo abbastanza semplice. Noi non possiamo detrarre dal reddito imponibile tutte le perdite su crediti. La parte di perdite su crediti che non detraiamo diventa, tra virgolette, un credito verso il fisco che il fisco ci ridà con detrazioni fiscali nei successivi 18 anni. Quindi noi sostanzialmente nel bilancio civilistico detraiamo tutto e viene l'utile quello giusto, nel bilancio fiscale ne detraiamo solo un pezzetto. Quello che non detraiamo ovviamente viene iscritto sull'attivo patrimoniale e poi si riduce nei 18 anni. Questo attivo, in base alle regole future di Basilea 3, verrebbe detratto dal patrimonio e quindi noi avremmo un doppio danno. Da una parte paghiamo più tasse, dall'altra parte patrimonialmente questo credito, sempre tra virgolette, non ci viene riconosciuto. Allora l'idea, insieme a Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia, è quella di cercare di risolvere questa anomalia che è italiana, sia in sede di legislazione nazionale, sia in sede di applicazione dell'accordo su Basilea 3. E lo dobbiamo fare non aggravando però di questa soluzione il bilancio dello Stato. Io credo che ci siano tutte le possibilità tecniche per arrivare ad una soluzione ragionevole che ci fa permanere questa anomalia, almeno fino a quando lo Stato non sarà in grado, per l'equilibrio dei conti pubblici, di ritornare a una più naturale e trasparente detrazione sia civilistica che fiscale, ma quantomeno sullo stock che abbiamo, che quello stock valga patrimonialmente qualcosa, perché in realtà lo vale, perché comunque, sia pur tra virgolette, sempre un credito verso lo Stato è. Ecco, ha citato lei Basilea 3, su questo fronte qualche preoccupazione permane? Sì, lo abbiamo detto con grande serenità, anche qui non siamo contro le regole e non siamo neanche contro le nuove regole. Noi crediamo però di rappresentare un insieme di imprese bancarie che è entrata nella crisi meglio di altre, ha attraversato la crisi meglio di altre e sta uscendo dalla crisi meglio di altre. Dice perché? Dice questo perché noi, le nostre imprese bancarie, non hanno goduto di una lira del debito pubblico, mentre in altri paesi questo è avvenuto con dimensioni estremamente significative. Allora, se questo è vero e questo modello è virtuoso, le nuove regole dovrebbero valorizzare questo modello, non rischiare di penalizzarlo. Io sono convinto che nello spazio che abbiamo, sia in ambito di Comitato di Basilea 3, sia sul Parlamento europeo, sia infine poi quando il Parlamento italiano dovrà recepire la direttiva, abbiamo tutto lo spazio per poter migliorare in questo senso, quindi non un atteggiamento contrario alle regole, ma un atteggiamento favorevole alle regole che tengono conto però della peculiarità delle imprese bancarie italiane, che hanno i loro attivi fra il 60 e il 70% impiegati a crediti a famiglie, imprese piccole, medie e grandi. Ed è su questo che con Confindustria, con Rete Impresa Italia, abbiamo una posizione sostanzialmente comune. L'ultimo paio di domande, la prima riguarda l'Irlanda. Mi sembra di aver capito che l'esposizione delle banche italiane non sia preoccupante, non ci sono particolari problemi nemmeno per quelle che sono andate ad investire in Irlanda. No, direi di no. Mi sembra che i dati pubblicati dai giornali, anche negli ultimi giorni, dal Sole 24 Ore, segnalino questa questione come una questione oggettivamente marginale. Non abbiamo attività di lending in Irlanda, non abbiamo finanziato gli investimenti immobiliari in Irlanda. In Irlanda ci sono alcune società partecipate o controllate da banche italiane che fanno mestieri diversi, di asset management ad esempio, per la maggior parte sfruttavano una competenza che si era creata in quel paese, che aveva attratto tanti cervelli, tante competenze e quindi tante imprese e quindi anche tante relazioni. Oggi c'è una norma nella finanziaria di giugno che consente in Italia di rimpatriare queste imprese finanziarie. Siamo in attesa del regolamento ed è una norma di straordinaria lungimiranza, perché consente per 3 anni all'impresa che rimpatria la propria sede, la propria operatività, di negoziare con lo Stato italiano quale regime fiscale tra i regimi fiscali dell'UE applicare per 3 anni. E quindi favorisce il rientro di attività, il rientro di cervelli, il rientro non solo di attività quindi economiche, ma anche di pensiero, di alte capacità professionali. E mi auguro che il regolamento venga emanato presto e che ci possano essere degli esempi concreti. L'ultima domanda invece riguarda il cosiddetto salary cap. Lei propone una cosa stile NBA, stile NBA per i banchieri. Negli ultimi anni ne abbiamo viste di ogni da questo punto di vista, sia sul fronte dei salari, sia sul fronte ultimamente di luminose liquidazioni. Qual è la sua idea nello specifico? Ne ha già parlato con i suoi associati? Sta immaginando qualcosa? No, questa è una posizione, come ho detto sin dall'inizio, quando l'ho espressa la prima volta, assolutamente personale. personale, non ne abbiamo mai ragionato, e personale deve rimanere. Io credo che non debba riguardare solo le banche, perché il tema degli stipendi del top management è trasversale ad ogni tipo di impresa di una certa dimensione, perché se no guardiamo solo il solito pezzo di mondo e non tutto il mondo. Credo che un limite quantitativo che individui un moltiplicatore rispetto al salario medio di quell'impresa e che sia mobile rispetto alle dimensioni dell'impresa possa essere un segno di partecipazione concreto ad una fase economica che, ripeto, io intendo totalmente diversa dal passato. Ma quindi il polso dei suoi colleghi non l'ha tastato su questo? No, non ne abbiamo mai discusso. Se verrà l'occasione ne discuteremo, anche perché non mi pare che questa sia una questione che oggi abbia una concretezza applicativa. Questa dunque è l'intervista che abbiamo realizzato con Giuseppe Mussari. 349-238-6666 per i vostri sms. Una breve pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Parleremo invece sempre sul fronte banca, ascolteremo una breve intervista invece col direttore generale dell'ABI sul fronte della redditività delle banche, il che ci porterà ai mercati. A tra poco. Le 17:37 minuti 43 secondi, come si diceva, riprendiamo un attimo il tema delle banche brevemente e poi andremo ai mercati. Nel frattempo vi dico solamente che le cose sono rimaste negative come le avevamo lasciate. Il FTSE MIB ha lasciato sul terreno l'1,93%, il FTSE Share l'1,84%. E dunque parliamo di banche perché abbiamo sentito dire non solo dall'ABI ma anche dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, anche dai ministri competenti, il sistema bancario è solido. Però c'è un altro problema: questo sistema bancario è in grado di produrre abbastanza utili, soprattutto in una fase come questa nella quale la crisi finanziaria si è tramutata e ormai da qualche tempo in crisi vera proprie, e quindi banche che hanno, come ci diceva Mussari poco fa, tra il 60 e il 70% dei loro impieghi verso imprese e famiglie, sono in grado di affrontare una situazione come questa, anche tra l'altro con l'arrivo di Basilea 3 a breve. Su questo, alla luce anche dei risultati registrati nei primi 9 mesi dell'anno al sistema bancario, abbiamo intervistato Giovanni Sabatini, il direttore generale dell'ABI. Ascoltiamolo. Per le banche commerciali e l'attivo delle banche italiane dimostra chiaramente che la principale attività delle nostre banche è fare crediti a imprese e famiglie, la crisi dell'economia ha degli effetti importanti in termini di minore redditività. La crisi comporta due elementi: bassi tassi di interesse e una sofferenza del sistema industriale che si riflette sulle perdite su crediti delle banche. I segnali dalle ultime trimestrali sul tema delle perdite su crediti, pur continuando a evidenziare un aumento in valore assoluto, dimostrano un rallentamento della velocità di questo incremento, e questo è un segnale positivo. È chiaro che i segnali della ripresa sono ancora deboli, evidenziano una ripresa fragile con velocità differenziate tra aree geografiche, e per l'Italia la ripresa si ricollega a un tema strutturale, cioè una scarsa competitività legata a una scarsa produttività, e quindi il percorso delle imprese italiane e anche delle banche italiane può essere più difficile, e quindi sicuramente la redditività delle banche italiane può essere ridotta nel tempo. 17:40 minuti, 34 secondi. A chi ci chiede, insomma, fa riferimento alla trasmissione di Report di ieri sera, quella che trattava tra l'altro anche di Finmeccanica, ha avuto anche quella, a quanto pare, un certo impatto sui mercati. Dunque andiamo a vedere come sono andate le borse. Eleonora Micheli, Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Come sono andate le borse? Male. Male, Piazza Affari è andata sicuramente peggio delle altre, perché se Parigi ha perso l'1%, Francoforte lo 0,35%, Londra lo 0,88%, a Milano il FTSE All Share ha perso l'1,73%, il FTSE MIB l'1,93%, appesantito soprattutto dalle banche. Ricordiamo che Piazza Affari è uno dei listini assolutamente più ricco di banche rispetto ad altre piazze finanziarie, e poi anche da alcune blue chips, come dicevi tu, Finmeccanica. Meccanica sul finale ha perso il 4,8%. Sì, nella battaglia tra chi ha fatto peggio, oggi ha vinto Prismian, un meno 4,91%. Accennavamo in apertura a quest'OPA su Draca e al rilancio dei cinesi, no? Esatto, oggi è stata una giornata di colpi di scena. Questa mattina, prima che aprisse la borsa, Prismian ha annunciato il lancio di un'OPA sull'olandese Draca, che tra l'altro era già stata nelle mire di Prismian in passato. Ha offerto 1,3 miliardi in parte in azioni Prismian, ovviamente in parte cash. Subito dopo però i cinesi hanno rilanciato con un'offerta apparentemente, cioè, ben più allettante, perché hanno offerto più di 20 euro per azione cash. D'altra parte, cioè, come è stato ribadito anche da Prismian, l'azionista di controllo di Draca avrebbe già preso accordi con Prismian. Bisognerà vedere che cosa succede, sì, nei prossimi giorni. Sì, naturalmente, anche perché è decisamente allettante l'offerta cinese di 3,30 euro superiore a Prismian. Veniamo a Finmeccanica proprio, perché report ieri sera, poi sui giornali oggi le indiscrezioni sull'interrogatorio di questo super consulente Cola, è stato quello fondamentalmente ad avere un impatto negativo sul titolo, no? Esatto, si teme infatti che appunto, cioè, il report ha fatto luce su alcuni aspetti che ovviamente non piacciono al mercato. Cioè, si è tornati a ipotizzare l'esistenza di fondi neri, che peraltro è stata nuovamente smentita questo pomeriggio dal presidente amministratore delegato Pierfrancesco Guarguaglini. La borsa tuttavia è allerta e per questo ha fatto scivolare le azioni con questo ribasso del 4,8%. Comunque, nel durante della seduta le azioni erano arrivate a perdere anche oltre il 5%. Ci chiedono Eleonora di Fondiaria Assai. Allora, un calo del 3,5%, un calo che non si arresta apparentemente. In questo caso ovviamente pesa la prospettiva di un aumento di capitale. Oggi comunque è andato male tutto il comparto assicurativo europeo. In Europa il sottoindice Stoxx 600 ha segnato un meno 1,24%, assicurazione insieme alle banche sono appunto i comparti che hanno fatto peggio. Ovviamente quando si va a vendere si vende con maggiore convinzione i titoli che magari si ha la prospettiva che possano essere soggetti a aumento di capitale, come nel caso di Fondiaria Assai. Ovviamente. Allora, Eleonora, resta un attimo con noi, perché adesso andiamo a sentire la viabilità e poi arriviamo ai buoni, per così dire, che sono veramente pochi oggi: Bulgari, Exor, Fiat e Lottomatica. La viabilità. Focus Economia. Allora, Eleonora Micheli, veniamo ai buoni, iniziando da Bulgari, un più 1,60% oggi. Sì, in questo caso si può dire che è andato bene un po' tutto il settore del lusso europeo. Ad esempio a Parigi LVMH ha vantato un progresso dello 0,25%, PPR, la società che controlla anche il gruppo italiano Gucci, ha segnato un rialzo dell'1%. Ha fatto bene anche Bulgari, più 1,59%, ricordiamo che si avvicina il periodo natalizio, che dovrebbe essere il migliore per proprio le aziende del lusso, in vista anche della corsa ai regali di Natale. Lottomatica ha un guadagno di 0,5 punto percentuale, come mai? Sì, Lottomatica in questo caso si scommette sull'aggiudicazione delle lotterie in Texas, secondo indiscrezione è quasi certo infatti che la controllata americana G-Tech possa aggiudicarsi questo importante contratto oltre oceano, e proprio per questo le azioni si sono comportate bene sin dalle prime battute di questa mattina. Così come bene ha fatto il lusso, bene ha fatto anche il settore auto, no? Una Fiat che guadagna uno 0,74% e ancora Exor che va benissimo, 1,5 punto percentuale. Sì, Esatto, il settore auto continua a beneficiare dell'effetto General Motors. Ricordiamo che i titoli di General Motors hanno debuttato a Wall Street la scorsa settimana con un rialzo di oltre l'8% e questo continua a elettrizzare tutto il settore. Il settore auto europeo quest'oggi ha messo a punto un progresso dello 0,9%. Su Fiat inoltre si continua a scommettere su eventuali operazioni straordinarie, che sono sempre la cessione di Magneti Marelli, l'IPO di Ferrari, operazioni che ovviamente andranno a dare una spinta direttamente alle quotazioni della controllante Exor. Infine, Eleonora, ti chiedo di tornare tra i titoli che sono scesi oggi con Mediaset, un calo del 2,37%. In questo caso due sono i fattori: uno ovviamente politico. Da due settimane infatti i titoli di Mediaset, a parte forse una battuta d'arresto in una seduta, hanno inanellato un ribasso dietro l'altro, risentendo dell'incertezza politica che si complica ogni giorno di più. Comunque quest'oggi il Financial Times è tornato un po' a riaccendere i riflettori, peraltro sul debito di Endemol, società che è partecipata dalla stessa Mediaset attraverso Telecinco, e quindi appunto la delicata situazione del gruppo Endemol ha ovviamente incoraggiato ulteriormente le vendite su Mediaset, che così hanno concluso la seduta in calo del 2,37%. Grazie anche oggi ai colleghi di Radio Corriere 24 Ore, in particolare ad Eleonora Micheli. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, un quadro finale di giornata, così diamo anche nel dettaglio i bancari che ci avete chiesto a gran voce. Complessivamente sono andati male, e a chi ci chiede di riassumere perché le cose sono andate male oggi, insomma, evidentemente il mercato non è rimasto soddisfatto dal piano irlandese. Peraltro si sta prospettando una situazione politica complicata in Irlanda con i Verdi, che fanno parte della coalizione in maggioranza, che chiedono il voto a gennaio. Vedremo come andrà a finire. Di Prysmian FM Meccanica abbiamo detto: UBI Banca giù del 3,68% e Fondiaria del 3,5%, di quasi 3 punti tanto Azimut quanto il Banco Popolare, del 2,8 CIR, Intesa del 2,7, Mediolanum del 2,5%, così come la Popolare di Milano, Unipol giù del 2,4 così come Unicredit, Mediaset lo abbiamo detto, Generali giù del 2,10 di 2 punti percentuali a 2A, Geox dell'1,91, Mediobanca dell'1,86, Italcementi dell'1,8, Tenaris dell'1,7, il Monte dei Paschi di 1,5 punti, Impregilo dell'1,4, Buzzi Unicem dell'1,23, dell'1,1 Parmalat, Terna e Saipem, Telecom Italia di quasi 1 punto, dello 0,89 Enel, 7 Microelectronics dello 0,81 e Campari altrettanto, Ansaldo dello 0,74, Luxottica dello 0,68, Eni dello 0,61, Pirelli dello 0,49, Atlantia dello 0,45, dello 0,4 Autogrill, Snam Rete Gas giù dello 0,2%. In questo quadro l'euro è 1,36,21 contro dollaro, quindi in parziale recupero, anche se era arrivato a toccare quota 1,37 nella giornata di oggi, per l'esattezza quasi 1,38, 1,37,86, quindi anche questo indebolimento è un segnale. New York cede lo 0,68% sul Dow Jones e guadagna lo 0,15% sul Nasdaq, e le altre piazze finanziarie europee tutte in ribasso: Parigi dell'1,07%, Francoforte dello 0,31% riesce a contenere le perdite, Londra giù dello 0,91%. Adesso cambiamo argomento e parliamo dell'industria meccanica. Allora, oggi è stata presentata l'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'andamento del settore. Segnali di ripresa: la produzione è aumentata del 3,1% nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente, del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2009. Nei primi 9 mesi produzione in crescita del 9%. Sentiamo l'intervista di Andrea Viali al vicepresidente dell'associazione di Federmeccanica, Luciano Mioto, che conferma i segnali incoraggianti ma avverte anche che resta molta strada da fare. diciamo che i dati che abbiamo visto oggi per quanto riguarda il settore metalmeccanico italiano e anche quello europeo, perché abbiamo visto anche alcuni dati europei, ci dicono che la ripresa c'è. Però alcuni paesi come la Germania la ripresa sostanzialmente ha riportato ad una situazione quasi simile a quella prima della crisi, mentre per noi la ripresa, sia pur essendoci, fatica a crescere, fatica a progredire. Che cosa comporta questo fatto? Comporta che innanzitutto continuiamo ad avere un'elevata cassa integrazione, continuiamo a dover ricorrere alla cassa integrazione straordinaria e alla cassa integrazione in deroga, soprattutto per alcuni settori, e difficilmente nel breve periodo avremo la possibilità di vedere un mondo metalmeccanico effervescente, se non avviene qualcosa di straordinario e di positivo, proprio perché prima di tutto dobbiamo riportare la condizione al livello originale, cioè ai livelli pre-crisi del 2008. Come si può fare? Condizione necessaria che ripartano i consumi e ripartano gli investimenti. Allora, oggi abbiamo avuto modo di vedere che in giro per il mondo gli investimenti sono ripartiti e di questo noi come industria italiana ne stiamo beneficiando. Abbiamo bisogno che ripartano anche gli investimenti in Italia e soprattutto poi devono ripartire i consumi che ahimè ristagnano. In questo quadro quanto vi preoccupa la conclusione a giugno, lo ricordiamo, degli incentivi previsti dalla Tremonti Terco? Ma questo io credo che i numeri ci dicono che hanno influenzato, ma non hanno influenzato in maniera particolare. In realtà gli incentivi della Tremonti Terco sono stati dati in un momento in cui comunque c'era poca fiducia. Questo proprio glielo dico non solo come vicepresidente di Federmeccanica, ma anche come imprenditore che vende a un certo tipo di clienti che sono clienti da investimento. Ahimè non c'erano idee, non c'era credibilità nel futuro. Oggi, e l'abbiamo visto nei dati, oggi la credibilità, cioè l'idea che il futuro sarà più roseo, è molto più diffusa, indipendentemente dal fatto che poi i numeri ancora non confermino questo. Dovremmo averla adesso una Tremonti Ter, non tanto quando nessuno ci credeva. Servirebbe oggi un qualche cosa che stimoli ulteriormente gli investimenti, oggi che la gente ci crede e che probabilmente oggi farebbe l'investimento. Questa è una richiesta a Tremonti. Questa è una richiesta comunque a chi governa di stimolare gli investimenti, perché indipendentemente dal ministro Tremonti è chiaro che un governo che stimoli gli investimenti, che stimoli gli italiani a credere, stimola poi l'industria a lavorare ed è alla fine un circuito sicuramente virtuoso. A chi ci chiede se Enel ha staccato il dividendo, diciamo di sì, insieme ad Atlantia, Mediobanca, Mediolanum, Sias, Tenaris e Terna, quindi in parte sull'andamento del listino di oggi, così pesante rispetto alle altre piazze finanziarie europee, naturalmente pesa anche questo. Abbiamo una pausa, c'è la pubblicità, poi c'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo e finalmente parliamo e facciamo il punto sulle vicende dell'Irlanda. Focus Economia. Le 18, 7 minuti e 37 secondi, mentre l'America è ancora in calo, il Dow Jones cede lo 0,85% e l'euro quota 1,36,15 contro dollaro. Tra l'altro sull'euro leggo due interpretazioni simili da due ascoltatori diversi che ci dicono che quando l'euro si apprezza troppo sul dollaro escono rumors sui cosiddetti pig, ossia appunto i paesi a rischio, e che questo sarebbe in sostanza un modo da parte dell'Europa per svalutare. Un'interpretazione un po' dietrologica, ma comunque un'interpretazione. Veniamo appunto al tema col quale apriamo questa parte della trasmissione, ossia l'Irlanda. Le notizie si stanno accavallando. Che ieri l'Irlanda abbia dato l'ok all'adozione del piano di salvataggio, lo sapete. Dovrebbe essere attivato per la prima volta il superfondo che l'Unione Europea ha messo a punto pochi mesi fa assieme al Fondo Monetario Internazionale in seguito alla crisi greca. Gli aiuti dovrebbero ammontare ad 80-90 miliardi di euro nei prossimi tre anni. C'è Ci sono però, c'è già qualche problema politico, insomma, perché i Verdi, come già si diceva, i Verdi irlandesi hanno minacciato l'uscita dalla coalizione di governo chiedendo elezioni per gennaio, il che mette a rischio naturalmente la stabilità politica dell'Irlanda e anche il piano di austerity dell'Irlanda stessa. Sentiamo però prima di tutti questi eventi il primo ministro irlandese Brian Cowen, appunto, quando ha confermato ieri l'avanzamento della richiesta per un piano di aiuti. Confermo che il governo ha deciso che l'Irlanda avanzi all'Unione Europea la richiesta per un piano di assistenza internazionale. La richiesta del governo è stata trasmessa alle autorità europee, le quali hanno risposto positivamente. Il processo di negoziazione ha preso il via con lo scopo di fornire assistenza in base a un programma che verrà stabilito dal governo irlandese, dalla Commissione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale Europea. Spero che questo accordo venga finalizzato in breve tempo, possibilmente entro le prossime settimane. La negoziazione si baserà chiaramente sulle discussioni tecniche tenute qui a Dublino nei giorni scorsi. L'accordo includerà un fondo per affrontare eventuali future necessità delle banche. In parole povere, le banche irlandesi diventeranno più piccole di quanto siano state in passato, per poi gradualmente rimettersi in piedi. Il secondo punto dell'accordo ci pone come obiettivo la riduzione del deficit. Ancora, in parole povere, il governo deve aumentare le tasse e ridurre le spese a livelli sostenibili. Così dunque il primo ministro irlandese Brian Cowen. Saluto Adriana Cerretelli, inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles. Buonasera Adriana. Allora, dal nostro punto di vista, modestissimo, per carità, così come è stato ancora una volta abbastanza confuso l'approccio a questo piano di aiuti irlandese, abbastanza confusa è anche la giornata di oggi, perché da una parte abbiamo un recupero dei bond irlandesi sul fronte dello spread con le obbligazioni tedesche, che sono quelle di riferimento, dall'altra parte però aumenta il rischio perché i credit default swaps sono di nuovo sotto pressione. Aiutaci un pochino a capire che cosa sta succedendo. Dall'altra parte anche la tensione politica irlandese della quale diciamo poco fa. Aiutaci a capire, Adriana. Ma io penso che anche in questi dati c'è una certa logica, nel senso che la diminuzione degli spread è giustificata dal fatto che il messaggio che arriva ai mercati, cioè quello della decisione irlandese finalmente di ricorrere a questo fondo di salvataggio, è sicuramente un messaggio rassicurante, che fa bene sperare per un recupero di stabilità futura, soprattutto da parte del settore banca, il settore finanziario irlandese, che è il problema centrale della crisi. D'altra parte però il fatto delle difficoltà di mettere insieme questo piano, la debolezza della coalizione del governo Cowen, la prospettiva che questo governo possa cadere, fa sì che naturalmente i contratti di assicurazione su questa operazione sul debito sovrano possano aumentare, nel senso che ci sono dei rischi insiti in questo tipo di operazione. In più i negoziati sono ancora aperti, c'è questa vicenda dell'aumento dell'imposta societaria del 12,5%, che sembrerebbe escluso perché il governo irlandese su questo non sembra disposto a trattare, e gli europei, dopo averlo chiesto, sembrano oramai rassegnati a rinunciare. Però fino a che le trattative non si chiudono, naturalmente non si può mai escludere una crisi negoziale su questo punto, che è sicuramente sempre stato una spina nel fianco, diciamo, dei maggiori paesi europei, vedi Francia, vedi Germania, che hanno delle tasse societarie ben più alte e che quindi hanno sempre accusato l'Irlanda di aver costruito il suo miracolo economico sul dumping in Europa, cioè drenando i capitali dei partner. Bene, allora Adriana, ti chiedo di rimanere ancora un attimo con noi, grazie intanto per averci chiarito tutto questo, poi ci soffermeremo un attimo, cercheremo di capire quali possano essere i prossimi passi e ti vorrei chiedere anche un'informazione su quest'intervento di Moody's oggi, che non è pienamente ufficiale da quel che abbiamo capito, ma dice molto probabile un downgrade di più livelli, lasciando il rating del paese ancora nella categoria di investment grade. Così dice Moody's, quello che vorrei capire da te perché proprio adesso e se i motivi sono quelli che poco fa ci hai spiegato. Tutto questo dopo la viabilità. Focus Economia. Le 18, 16 minuti e 12 secondi, si diceva, della tassa al 12,5% per le imprese che vanno ad investire in Irlanda. Del resto, considerate che oggi il colosso della tecnologia Hewlett Packard ha detto che riconsidererà il proprio investimento in Irlanda se Dublino aumenterà la tassa sulle imprese. Quindi, come dire, i timori degli irlandesi sono anche piuttosto giustificati. Questo annuncio di downgrade da parte di Moody's, allora Adriana, mi sembra ascrivibile anche a quello che ci dicevi poco fa, no? Assolutamente, perché non c'è dubbio che questa discussione sulla fiscalità delle imprese in Irlanda è un qualcosa di letale per questo paese. Non ci dimentichiamo che l'Irlanda era uno dei paesi più poveri in assoluto d'Europa, era un paese agricolo e diciamo dall'ingresso nell'Unione Europea ha approfittato proprio per diventare una sorta di piattaforma degli investimenti esteri, soprattutto americani all'inizio, in Europa. Questo grazie a questa fiscalità di favore che era al 12,5%. Ora, in un momento in cui il paese è in una crisi pesante come quella che sta attraversando, chiedergli di rinunciare, diciamo, a una delle carte che hanno fatto il suo miracolo economico è assolutamente controproducente e politicamente ma non dico discutibile, ma oserei dire demenziale, come a volte sono state fatte in questa crisi delle mosse pesantemente illogiche, e questa io spero che rientrerà, perché altrimenti il downgrading, al di là di tutto, mi sembrerebbe più che logico, perché si toglierebbe all'Irlanda uno dei mezzi per la crescita. Dopodiché è chiaro che può essere settante la concorrenza fiscale dell'Irlanda, però insomma in un mercato c'è pure concorrenza. Avevamo, mi pare, rinunciato al dirigismo una volta, no? Tu rischi per tenere sotto controllo un bilancio pubblico, rischi di ammazzare di fatto l'economia di un paese che in sostanza si regge solo su quello. Tra l'altro una e tagliare le sue entrate, perché se le imprese non ci sono più, le entrate di quelle imprese no. Tra l'altro, Adriana, una concorrenza fiscale che è stata messa in atto soprattutto su settori ad elevata specializzazione. Quello che intendo, non è una Cina dove si è andati a delocalizzare, no? No, assolutamente, questa era tutta industria di servizi essenzialmente, quindi era proprio, diciamo, informatica, servizi, ma era in sostanza le sedi delle società, non tanto i luoghi produttivi. A volte anche luoghi produttivi, ma insomma comunque sono le sedi sostanzialmente delle società. È come una sorta di grandissima piattaforma dove anche in Olanda ci sono, per esempio, spesso non si sa, ma della fiscalità di favore per le imprese, intendo dire. Sì. E quindi c'è questa concorrenza che a molti non piace, però insomma personalmente ritengo che la concorrenza faccia un po' parte del mercato. Sì, e che probabilmente faccia bene anche agli altri paesi europei. Come anche perché normalmente li incita, no, a cercare di migliorare. Esattamente, che è il ruolo della concorrenza. Beh, ci scrive un ascoltatore: perché quando uno Stato insomma entra in giro con i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale cade sempre in disgrazia. Accogliamo la battuta come tale, speriamo che questo non avvenga per l'Irlanda, anche che c'è anche il supporto dell'Unione Europea. Adriana, ti chiedo a questo punto i prossimi passi, che tempi si prevedono? Cohen appunto ha detto di sperare che la cosa si concluda rapidamente, dipenderà dal ritmo dei negoziati, dal tipo di accordo che verrà negoziato. Sicuramente stanno lavorando in fretta, il fatto che abbiano annunciato oggi la decisione, appunto, prima, non oggi, ieri sera, prima dell'apertura dei mercati, la decisione di chiedere il prestito, il fatto che l'Europa sia disposta a darlo, già è il segnale dell'urgenza, perché prima che i mercati aprissero si voleva calmierare la situazione. Adesso c'è tutto l'interesse a chiudere al più presto, però ci sono tempi tecnici, tra l'altro c'è il grande pacchetto di 15 miliardi di tagli al bilancio in 4 anni, di cui 6 solo l'anno prossimo, che deve passare in Parlamento. Sì. Quindi per esempio il fatto che cominci dentro la coalizione ad aprirsi una possibile crisi politica non aiuta. Crea. Questo naturalmente potrebbe fare rimandare l'accordo, questo sarebbe probabilmente gravissimo dal punto di vista dei mercati, perché certo. Allora ricomincerebbe la speculazione e allora quel tampone che si è messo appunto ieri sera per dare una calmata ai mercati potrebbe ovviamente non servire più. Ci auguriamo che non sia così, però certo no. Se la coalizione comincia a entrare in sofferenza È chiaro, sono problemi. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Grazie Adriana Cerretelli, inviata a Bruxelles del Sole 24 Ore, buonasera. Arrivederci. E noi passiamo a sentire le ultime due voci sulla vicenda irlandese. Innanzitutto quella della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Al microfono di Loredana Marchesi di Radio Cor, il Sole 24 Ore. Credo che sia un fatto positivo, l'Irlanda deve essere salvata, siamo tutti nell'ambito europeo, mi auguro e spero che questo possa portare a minori turbulenze sui mercati finanziari, è importante insomma che l'Europa rimanga unita e vada avanti in questa situazione complessa, ma insomma quindi è importante che questo il salvataggio vada avanti e sia concreto. Io credo che l'Italia ovviamente ha un debito alto, però ha i conti in ordine, il nostro deficit PIL è al 5%, minore della media europea, e questi paesi che oggi sono sotto attacco hanno un rapporto deficit PIL al 15 o 14%, quindi l'Italia non ha questo problema. È ovvio che turbolenze sui mercati finanziari vogliono dire anche per noi pagare tassi di interesse più alti e quindi ridurre ulteriormente la possibilità di investire soldi in tutto quello che ci serve, ricerca, innovazione, attenzione alle famiglie. E sentiamo appunto l'ultima voce sull'Irlanda, è quella dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, una voce che ha raccolto il collega di Radio Cor, il Sole 24 Ore, Guido Maurino, in Egitto, al Cairo, dove Passera ha inaugurato la nuova sede, il nuovo modello di filiale di Bank of Alexandria, insomma una delle banche del gruppo. Sentiamolo dunque sull'Irlanda. Io mi auguravo e devo dire scommettevo sul fatto che l'Irlanda da una parte e gli organismi internazionali avrebbero trovato il modo per sbloccare la situazione, cosa che poi è venuta. Non è pensabile di mettere a rischio o comunque a stress l'Eurozona per problemi certamente rilevanti per un paese, ma sicuramente gestibili in un'ottica complessiva. Certamente questa crisi deve insegnare a tutti, perché molti degli errori che sono stati fatti sono adesso ben chiari e noi dobbiamo assicurarci che nei prossimi anni non vengano in nessun modo ripetute. E tra l'altro Corrado Passera ha fatto sapere che Intesa San Paolo proprio in Egitto ha investito 1,5 miliardi di euro negli ultimi 4 anni per sostenere la crescita di questa controllata. Noi siamo quasi in chiusura e sempre in merito all'Irlanda sentiamo anche sulle possibili conseguenze della crisi irlandese per le imprese l'opinione di Alessandro Castellano, amministratore delegato di SACE, il gruppo che offre la copertura assicurativa alle imprese italiane che investono in 181 paesi. Sentiamolo. Ma sui rischi relativi a possibili peggioramenti degli arbitraggi fiscali non ci si tutela. La mia opinione è però che da tempo si stanno intraprendendo dei giusti cammini, particolarmente nei paesi non emergenti, per annullare questi arbitraggi fiscali, cioè paesi che hanno sfruttato l'arbitraggio fiscale negli anni scorsi e in questo momento stanno vedendo una fine del ciclo. Per quello che riguarda invece la problematica sui rischi sovrani, io credo che ci sia una situazione di overshooting, cioè di elevata o troppo elevata percezione di rischi che a mio giudizio, non, almeno nell'area europea, non ci sono. Quindi non ci sono particolari rischi su questo fronte, in sostanza le imprese che hanno investito là da quel punto di vista non devono temere. Guardi, noi parliamo con le imprese e non mi sembra che nessuna impresa che oggi abbia produzioni in Irlanda o produzioni in Grecia abbia timori che questo possa naturalmente domani, diciamo, questi rischi sui mercati o queste tensioni finanziarie possono essere traslati sulla loro produzione. Resta un problema europeo complessivo, che la domanda e gli andamenti demografici non sono più o non saranno più nei prossimi anni a livelli che erano probabilmente nei decenni passati, per cui una riconfigurazione, diciamo, delle aziende in termini di produzione e di margini e di redditività dovrà esserci. Per quanto riguarda, e restiamo in tema di tutela dai rischi, abbiamo visto molte tensioni in questi ultimi mesi anche sul mercato valutario. Da questi rischi come ci si tutela e come tutelate voi le imprese? Ma la volatilità, lei sa che in particolare il mercato dell'euro e il mercato del dollaro è uno dei mercati, chiamiamoli, perfetti, nel senso che ci sono strumentazioni per potersi coprire da naturalmente l'andamento della volatilità di queste due valute. Quello che permane è una volatilità molto alta e per cui i costi associati a queste coperture sono aumentati. Un altro tema che ha attraversato tutte le discussioni di quest'ultimo periodo sulla politica economica, in particolare anche sulla politica economica italiana, sulla capacità dell'economia italiana di reagire alla crisi, è stato il raffronto con la Germania. Ecco, su questo fronte, secondo lei, qual è stata la chiave del successo tedesca? L'aggressione dei nuovi mercati, una capacità maggiore delle imprese di appunto entrare sui nuovi mercati, un supporto statale delle istituzioni più forte? Guardi, il successo tedesco si compone di tanti successi che lei ha già menzionato, cioè non è un successo individuale, è un successo di tutte le componenti, è un successo della componente del sistema paese con le sue protagonisti pubblici, è un successo relativo a quelle che sono state le politiche dei sindacati, è successo in relazione alla produttività per cui del paese, ed è un successo anche a una lungimiranza maggiore rispetto ad altri paesi di avere fatto delle politiche più aggressive in paesi naturalmente che oggi hanno crescite maggiori. Io ritengo comunque che l'Italia è attaccata alla Germania, per cui stiamo anche noi in scia prendendo una serie, chiamiamole, di favori da questa loro capacità di affermarsi, per cui direi che l'Italia ha fatto bene la sua parte e la sta continuando a fare. Questa è la nota di ottimismo di Alessandro Castellano, amministratore delegato di SACE, che abbiamo intervistato giovedì scorso all'anno all'Economia e Finanza, che si è svolto qua nella sede del Sole 24 Ore. La nota di pessimismo arriva dalla Francia: per 2/3 dei francesi, secondo un sondaggio Ipsos pubblicato poco fa, il peggio deve ancora venire. Ed è qua che chiudiamo questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Una buona serata da Simone Spezia. Per chi ce lo ha chiesto, Sebastiano Barisoni torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.